vedo dentro me. La tua luce ora è spenta, grida forte che nel buio io ti sento. Non lasciare la mia mano, rincentire ancora. Io ci sono e resto qui per te. Corri presto, vieni a prendermi. Questo treno prenderà anche me. Adesso corro e sono qui per te. Apro gli occhi e vedo che non sei più solo. Siamo passeggeri di un sogno che nel buio ci rispecchia, ma tu non vuoi guardare. Parto adesso, io non resto qui. Viaggio e non torno.